Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Non ricordo esattamente quali furono le dinamiche per cui quell'anno e in quel preciso momento avrei dovuto incontrare mia mamma. Era il 1978, avevo 10 anni ed erano 8 anni che non la vedevo. Ciao, sono Jesus, vivo a Milano, ho 46 anni, sono sposato e ho due fantastici figli. Il mio più bel ritorno a casa, il primo giorno libero dopo il carne ai carabinieri, senza avvertire che tornavo a casa, sono passato da mia nonna che purtroppo oggi non c'è più. Ricordo i suoi occhi carichi di commozione vedendo il nipote in divisa. Andrea, il più bel ritorno a casa ogni qualvolta che torno a casa per le vacanze estive. Massimiliano, di ritorno dall'Australia, dopo 2 mesi, c'era anche il mio cane Bacco in aeroporto, Sonia. E poi ancora ritorno a casa dal militare, nel 1989. Viaggio allucinante, saltando letteralmente da un treno all'altro, da Piacenza a Siracusa, ma con una gioia immensa per essermi tolto quel peso enorme dallo stomaco. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono sempre Matteo Caccia, il programma è sempre Voi Siete Qui. Sono le 16:08, quasi 9 minuti in punto, è quasi già la fine di giugno ed è anche quasi la fine della stagione che quest'anno, in questo anno di programma, si prolunga. In realtà siamo in onda tutto il mese di luglio con storie originali, nuove e a tema. Facciamo 4 temi diversi per le 4 settimane di luglio. Partiamo con le storie che parlano dei mondiali di calcio, che sono ancora belli caldi. Passiamo a una settimana in cui raccontiamo storie legate alla guerra per la ricorrenza dei 100 anni del primo conflitto mondiale, e raccontiamo storie di viaggio e storie di avventura. Se a questo proposito avete ancora delle storie che volete mandare, che raccontino di viaggi, che raccontano di avventure, avventure o disavventure che avete vissuto, voi siete qui, @radio24.it, una pagina, massimo due, di storie da raccontare, e noi a luglio ci facciamo tutto il mese. La storia di oggi invece, la storia di Jesus, è la storia, forse l'avete capito dai messaggi che ho letto in apertura, è una storia che parla di un ritorno a casa, di un ritorno a casa molto particolare. Quando sul profilo Facebook del programma Voi Siete Qui Radio 24 abbiamo chiesto qual è stato il più bel ritorno a casa che ti ricordi, e quelli che sono arrivati, appunto alcuni ve li ho letti, parlano molto di militare, di ritorno a casa dal militare, che quindi è una cosa che di fatto non esiste più, a meno che uno non sia militare di professione, e spesso quei ritorni a casa sono anche probabilmente più carichi di emozione di quanto non fossero quelli della leva. E poi ritorno a casa da viaggi, ovviamente, di ritorno dall'Australia, quando sono ritornato in Italia da Londra per la prima volta dopo mesi che ero partita, scrive Alessandra. Entrai in casa di mio nonno senza bussare, lui mi guardò come se avesse visto un fantasma e si mise a piangere, per poi abbracciarmi e non staccarsi più. La storia che raccontiamo però è proprio un altro tipo di ritorno a casa. Non aspettatevi una roba dal militare o da una vacanza, perché Jesus racconta una storia molto particolare e molto intima, e proprio per questo è una storia che parla a tutti. Questa è una cosa che noi ci diciamo sempre e ce ne rendiamo conto ogni volta che leggiamo le vostre storie, che vi chiedo di continuare a mandare, ovviamente. Voi siete qui, @radio24.it, non solo per luglio ma anche per tutta la stagione prossima. Noi continuiamo a raccontare storie e abbiamo bisogno ovviamente dei vostri episodi di vita. Voi siete qui, @radio24.it. Come vi dicevo, quando arrivano storie molto particolari, storie che hanno un percorso, che hanno dei personaggi molto particolari, invece che stringere, allargano. Cioè, invece che focalizzarsi su quella semplice persona, è proprio passando attraverso quella persona, passando attraverso il suo percorso, che quella storia diventa universale. Mettetevi comodi, veramente, 10 minuti, perché la storia di Jesus è una storia che in parte è commovente e in parte parla di una grande e fortissima determinazione. Era l'Italia del 1978 ed era Milano. Una Milano con le Ritmo, le Renault 5, le Fiat 130 e le mini parcheggiate lungo le vie. Una Milano dove la nebbia in inverno faceva ancora da sfondo ai quartieri, alle case e ai parchi. Nel 1978 avevo 10 anni. Ed erano 8 anni che non vedevo mia mamma. Non ricordo esattamente quali furono le dinamiche per cui quell'anno e in quel preciso momento avrei dovuto incontrarla. Il tramite per raggiungere mia mamma erano i miei nonni materni. I miei ricordi di come arrivai a conoscere i miei nonni sono tutt'uno con la nebbia della Milano di quel tempo. Nei miei pensieri di bambino di 10 anni, l'incontro con mia mamma avrebbe dovuto occupare uno spazio temporale breve, di qualche ora al massimo. Così era stato organizzato e così ero pronto per affrontare quell'evento. La relazione tra i miei genitori è terminata che io avevo 2 anni e il destino ha voluto che, anziché seguire mia madre, ho sempre vissuto con mio padre. Nel frattempo mia madre si è rifatta una vita e si è trasferita in Meridione, quindi a 800 km di distanza da casa mia, e per questo motivo non abbiamo mai avuto modo di poterci incontrare. Ho un fratello più grande di me di 18 mesi e fino a quel momento tutto quello che avevo vissuto l'avevo fatto al suo fianco, supportato e pronto a supportare. In occasione di quel viaggio lui non ci sarebbe stato, quindi prima volta da solo, prima volta con i nonni e prima volta con mia mamma. Non ricordo i preparativi della partenza, quando feci la valigia o chi la fece, ma ricordo molto bene gli accordi. Senti piccolo, ci vediamo a Roma. Tu parti da Milano, io da Salerno e ci vediamo a metà strada. Passiamo qualche ora insieme e poi ci salutiamo. Perfetto, tutto quadra. I miei nonni avevano una portineria in uno stabile vicino a via Procaccini, zona Parco Sempione, non molto lontano da dove abitavo io con papà e la sua compagna, vicino al carcere di San Vittore. In bicicletta circa una ventina di minuti, a piedi poco più di un'oretta e circa 15 minuti invece in tram. La portineria ha un divisorio in legno e vetro che separa la guardiola dall'androne dello stabile. Dietro alla vetrata, nella guardiola, c'è il tavolo con 6 sedie disposte ai lati, una tovaglia di plastica antimacchia che ricopre il legno del tavolo e l'immancabile centrino fatto ad uncinetto che troneggia a centro tavola. Un frigo, un lavandino e la cucina. Una porta laterale dà l'accesso alla camera con un letto enorme, un armadio e un divano. Anche i miei nonni sono enormi, 110 kg lui e 120 kg lei, 2 nonni che da soli facevano per 4. Arrivato, saluto papà e Gianna, la sua compagna, e rimango da solo con i miei nonnini. La mia valigia marrone rettangolare con gli angoli rinforzati l'appoggio vicino al divano in camera. Appendo il mio cappottino all'attaccapanni e, seduto al tavolo dietro la vetrata con la tenda tirata che isola l'intimità familiare dal susseguirsi degli inquilini, parlo con i nonni del viaggio di domani. Perbacco, le cose però sono cambiate. Non si va più a Roma, si va a Napoli. E non si parla più di ore, ma di giorni da passare con mia mamma. Mi si gela il sangue. Eh no, non erano questi i patti, penso. Non dico niente, e i miei nonni mi presentano questi cambiamenti come un evento naturale, come se tutto fosse già stato scritto da tempo. In fondo si tratta di incontrare tua mamma. Domattina presto si va in stazione e si parte. Adesso andiamo a letto, che domani la sveglia suona presto. Metto il pigiama e mi infilo tra le coperte del divano trasformato in letto. I miei nonni avevano una portineria, erano delle persone abbastanza basiche, diciamo, da un certo punto di vista, anche perché sono personaggi nati all'inizio del secolo e quindi la loro cultura non era di sicuro ben strutturata. Nella loro semplicità però erano dei nonni decisamente simpatici. Tutto è strano nel buio e nel silenzio del sonno dei miei nonni. Un colpo di tosse, le due pance che si muovono sotto le coperte e formano 2 colline abnormi. Il nonno inizia a russare. 2 scorregge lacerano il silenzio e la luce che filtra dalle imposte. Il mio sonno non arriva. Anzi, i miei pensieri mi martellano. È tutto diverso da come mi aspettavo. È tutto diverso. Credo quello che ho fatto dopo non ho neanche pensato. L'ho fatto e basta. Piano piano, sotto le coperte, mi sono vestito. Mi sono messo le calze, le scarpe, il cappotto, ma tutto con movimenti lenti, senza generare rumore. Più lento di un soldato in appostamento e più leggero di un ladro d'appartamento. Apro piano la porta con gli occhi fissi su quelle due colline. Continuano a russare. I cardini non emettono nessun gemito. La chiave nella vecchia toppa gira piano e il mio polso è fermo. Apro la porta a vetri e sono nell'atrio dello stabile. Schiaccio il bottone e la corrente sblocca la serratura. Sono in strada. È buio. La luce gialla dei lampioni illumina la strada totalmente deserta. I nonni dormono, le macchine posteggiate dormono, Milano dorme. Non so neanche che ore sono e non mi importa. Ai bambini di 10 anni non importa mai che ore sono, le cose si fanno e basta. Percorro tutti gli 800 metri di via Pier della Francesca fino a via Procaccini. So che in fondo, girato l'angolo, c'è la fermata del tram, il 29, che mi porta dritto a casa. Arrivo alla pensilina e mi siedo ad aspettare. Ed ecco che a sinistra, in fondo alla via, il faro bianco sullo sfondo arancione si avvicina costante. Mi alzo, segnalo con la mano che devo salire. Il tram si ferma, il classico rumore pneumatico precede l'apertura delle porte. Il gradino si apre in contemporanea e salgo. Il cocchiere, così come lo chiamavamo io e mio fratello, ha una bella faccia, da buono. Mi guarda con un punto interrogativo enorme sul volto. «Cosa stai facendo? Dove stai andando?» «A casa», rispondo. «Ma lo sai che ore sono?» «No, è l'una e questa è l'ultima corsa del giorno». «Meno male, io scendo al capolinea in piazza Aquileia, abito lì». «Ma cosa fai con la valigia?» «Sto andando a casa». Il viaggio prosegue in silenzio. Mi metto alle spalle del cocchiere e guardo i binari che scorrono sotto i vetri del parabrezza. Non facciamo alcuna fermata perché nessuno deve prendere il tram. Le fermate sono vuote. Tutti sono a letto a dormire. Sono l'unico passeggero. In 10 minuti siamo al capolinea. Le porte si aprono e scendo. Ciao, ciao. E che cosa ci fa lì, mio papà? Evidentemente non sono stato così silenzioso. Ho svegliato i nonni. Lo vedo, lo saluto. Ha una faccia con la paura nello sguardo, ma l'espressione dell'uomo fiero. Mi prende per mano, prende la mia valigia e facciamo gli ultimi 50 metri insieme in silenzio. Andiamo a letto, mi dice. Domani mi racconti tutto. Uè, son chi? Vieni già con la piena. Vieni già, me un falchetti a l'uretta. Sì, sulle ore melotte. La città de farine è un casotto, manca in sci. La de piazza anche in sci, del perché. La città che lo dente in 10, de qual serie un fiolino. E lo vista dal tram, da casu respingente. Come in giostra vola, proprio in sci vela per ricantare. Oh, e son chi? Beh, è quello che si definisce un omaccione dalle mie parti, Jesus. Bello piazzato in un piccolo spiazzo, tra l'altro, di montagna, un cielo azzurrissimo alle sue spalle. Lui ha il figlio più grande davanti, su cui ha appoggiato un braccio, e il figlio più piccolo invece sulle spalle, lo tiene con una mano in maniera molto ferma. Ha gli occhiali da sole, i capelli appena appena brizzolati, ed è un po' un George Clooney di Voi siete qui. Pronto, Jesus? Di Voi siete qui, però l'ho specificato, Cioè adesso non vorrei che tutti pensassero a casa che tu sei un George Clooney qualunque. No, quello di Voi siete qui, perché è proprio del nostro programma. Come stai? Sei un grande, Matteo. Benissimo, anche benissimo. Anche tu, non scherzi. Grazie per la tua storia che è molto bella. Allora, noi abbiamo ovviamente una marea di domande da farti. La prima è: perché Jesus? Da dove arriva il nome? Allora, tutto nasce dalla particolarità di mio papà, chiaramente, che è un personaggio un po' sopra le righe, e quindi lui voleva darmi un nome unico, un nome che pochi ce n'erano. Che avevate tu e un altro. Avevate tu un altro e il protagonista di il protagonista, uno degli attori, dei personaggi di, come si chiama, il film dei Coen. Il grande Lebowski, esatto. Sì, beh, lui addirittura mi voleva chiamare Caino, poi chiaramente ha incontrato un po' uno sconsiderato quest'uomo. È ancora vivo lui, è ancora con noi. Assolutamente, okay. Forte e grintoso. Bene. E quindi quindi arriva da tuo papà. Cioè, tuo fratello come si chiama, per capirci? Si chiama Christian. Ok, quindi a lui è andata, è andata meglio a lui. Senti, invece torniamo un attimo a quegli anni là. Cioè, avevi 10 anni ed erano 8 anni che non vedevi tua mamma, quindi di fatto tu non te la ricordavi tua mamma. No, diciamo che assolutamente non avevo neanche presente la sua struttura fisica, quindi nemmeno il suo viso, niente, non avevo mai visto mia mamma. E com'è che a un certo punto lei decide che vuole vederti, oppure non so, i nonni, il papà decidono che sia il caso che vi vediate? Beh, inevitabilmente anche per lei sarà stato un trauma abbastanza importante, quindi presumo che mi abbia sempre rincorso, come io fondamentalmente l'ho sempre rincorso, no? La voglia di conoscersi. E così quell'anno capitò che io conobbi i miei nonni e quindi loro mi dissero che c'era questa opportunità di poterci incontrare. Ah, tu li conoscesti quell'anno anche loro? Non era recente la conoscenza con i nonni? Era recente, sì, però come ti dicevo, tutto si confonde con la nebbia milanese e non mi ricordo esattamente. Okay. Certo. Un mese prima, sei mesi prima, un anno prima o qualcosa del genere, insomma. Ok, però insomma era diciamo una conoscenza recente anche quella con i nonni, con i nonni materni. Tutta la famiglia da parte di mia mamma praticamente non l'avevo ancora conosciuta. E quando l'hai rivista poi tua mamma? Credo di averla vista poi nell'80, quindi un paio di anni dopo. Sì, mi sembra che in concomitanza con il terremoto lì dalle parti di Salerno, quindi se non sbaglio dovrebbe essere l'80-81. E guarda, se hai voglia di parlare, che rapporto hai adesso con lei? Mia mamma, quindi il legame è sempre forte, no? Nonostante il fatto che non ci conosciamo, ma le nostre similitudini sono tantissime, quindi riscontriamo ogni volta che ci sentiamo qualcosa che ci accomuna. Ma quindi adesso diciamo c'è un rapporto in qualche modo? Sì, assolutamente. Quest'estate sono andato giù con i bambini, sono andato a trovarla e quindi abbiamo passato una settimana insieme. Quindi sì, insomma, dai, una settimana all'anno, ecco. Ok, però insomma c'è un rapporto civile e buono. Sì, no, pieno di affetto assolutamente. Ah, okay. Ma se noi non ci sentiamo per un paio di mesi, la telefonata risulta normale come se ci fossimo sentiti il giorno prima, quindi tutto... Chiarissimo. E ti ricordi com'è stato quando l'hai vista la prima volta? Allora, quando l'ho vista la prima volta, no, non me lo ricordo. No, è onestissimo. Beh, è stata una roba, no, non me lo ricordo. E la Gianna invece, la compagna di tuo papà, c'è ancora? Sono ancora insieme? Sì, no, non sono più insieme perché poi io quando ho incominciato le superiori, poi anche il rapporto tra mio papà e Gianna è terminato. Vuol dire che mio papà è un uomo proprio in gamba con le donne. E invece lui non ti ha mai detto, cioè non ti ha detto ti sei fatto un viaggio di notte da solo in tram, no, è stato... Ma guarda, mio papà mi ha sempre descritto come quell'essere umano che se per caso lo lasci nel deserto è capace di ritornare indietro completamente vestito e perfettamente quindi, idratato. Quindi non ti ha dato due scapaccioni, no? No, quindi lui conosceva le mie potenzialità e nello stesso momento aveva anche lo sguardo fiero come per dire, ce l'ha fatta. Ho ritardato ancora di più un incontro con mio figlio, mio figlio ce l'ha fatta. Senti, e poi con le potenzialità come le sviluppate? Cosa hai fatto nella vita? Cosa fai adesso, Jesus? Adesso io faccio il venditore e quindi vendo per una multinazionale americana che opera nel settore della sanità. Ok, perfetto, quindi macchinari. No, più che altro medicazioni avanzate. Ok, sei un... come si dice tecnicamente? No, non sono un informatore scientifico. No. Bene, gli scientifici sono laureati, sono più fighi, sono più bravi. C'hanno il trolley. Bravo. Tu non c'hai il trolley? No, io ogni tanto ho dei sacchetti con dentro dei campioni, ma non il trolley. La sportina. E se di quelli... scusate, salto la fila, devo entrare dal medico, ma devo solo lasciargli dei campioni. Assolutamente, con un odio indiscriminato da parte dei più di tutti i presenti. Jesus, grazie mille per la chiacchierata e per la storia. Matteo, io ringrazio voi tantissimo per questa opportunità. In bocca al lupo per tutto, anche noi. Vi voglio bene a priori. Anche noi, ciao, grazie. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Siamo praticamente diventati tipo RDS, Radio DJ. Vi voglio bene, sai quelli che dicono agli ascoltatori vi voglio bene, che noi ovviamente li vogliamo bene, però non lo diciamo per pudore. Vi voglio bene, amici, vi vogliamo bene. Perché vi vogliamo bene che organizziamo una festa finale, che è giovedì, che purtroppo è tutta esaurita, quindi chi c'è, chi non c'è, non c'è, però la festa c'è. Ragazzi, sembrava un'assonanza non voluta, invece lo era. È giovedì alle 20. O 21:30, ancora non ho capito bene, alle 21 direi, alle 21, attenzione, giovedì alle 21, puntuali qui a Via Monterosa 91. Sono continue assonanze oggi, quindi possiamo anche chiudere qua. Io ringrazio Tiziano Bonini, Margherita Ina e Paolino Corleoni. Ringrazio soprattutto Jesus, la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso sulla mappa. Ciao, sono Gaston, abito a Buenos Aires, la storia di domani è la mia e parla di come ho imparato a fare l'asado. Questa è la mia storia e io sono qui.